Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sto facendo il video. Ilaria! Oh, ma ce ne sarà una tizia? Ciao ciao! Il Tognella! Questo! Si non si vede. Lo so, fa niente. C'ha la testa di... Oh! Daisy! Sorridi alla telecamera! Cristian! Cristian! Sorridi alla telecamera! Se però urlalo, che in fondo non si dice. Questo è il mondo parallelo che si svolge in una classe durante una lezione. Non fate finta di non saperlo, di non conoscerlo, di non intuirlo, perché assomiglia al mondo parallelo che si svolge nel vostro ufficio, nel luogo di lavoro, nella metropolitana, nell'autobus, nella vita personale di ogni genitore, di ogni adulto. Mentre il professore spiega, mentre si svolgono le lezioni, i ragazzi naturalmente invadono la loro area personale, che è quella di condivisione dei social network. Hanno tutti una loro protesi emotiva e giustamente si condividono le impressioni di quello che accade in quel momento, o raccontano quello che è accaduto, o comunque tengono contatti tra di loro. Chi non l'ha fatto? Vogliamo ricordare che ai tempi dell'antica scuola analogica giravano i bigliettini, si facevano segni e c'era il linguaggio dei sordi, che in qualche maniera comunque si riusciva a comunicare, si chiacchierava, si bisbigliava. State zitti, non si chiacchiera in classe, si girava il professore arrabbiatissimo. Ma già dai tempi di Gian Burrasca, che è un libretto per ragazzi buoni dell'epoca umbertina, Gian Burrasca viene ripreso dal professore, che ha fatto una caricatura del professore con la barba, con i capelli dritti sulla testa o qualcosa del genere. Quindi quando accade che i ragazzi usino appieno le loro protesi elettroniche per fare delle foto, per fissare dei momenti epici della loro giornata, anche se si svolgono durante l'orario scolastico, è chiaro che poi i professori non sono attrezzati nel gestire questa loro attività. È strano e singolare, perché la scuola si sta proclamando come il luogo in cui passerà anche la cultura digitale, che in fondo è la chiave di lettura, è la cifra essenziale della nostra epoca. Oggi, se non cominciamo a capire come si articolerà il pensiero nel mondo digitale, non abbiamo capito nulla. Quindi il professore, poveretto, si trova di fronte a un grande dilemma. Da un certo punto di vista deve insegnare in classe, in scuole, in edifici scolastici che sono identici a quelli degli ultimi 50 anni, con una cattedra, una lavagna, dei banchi con del piano di formica, un professore che parla e dei ragazzi che devono comunque seguirlo, anche se non gli importa nulla, se non riescono a essere affascinati da quello che dice. Allo stesso tempo gli viene dato l'input: bisogna modernizzarsi, bisogna entrare nel mondo digitale. Lui, poverino, che fa? Boh, ha in tasca il suo Nokia vecchia generazione, a casa probabilmente ha un computer ancora con installazione lato Windows 95, per lui significa insegnare a usare il computer, devo imparare a usare il computer. Davanti a degli smanettoni con degli smartphone di ultima generazione, mentre lui parla, gli fanno un filmino, lo mettono su Facebook, lo condividono, lo prendono per il culo. Beh, non è una situazione molto semplice da gestire questa. Oggi l'argomento che vorrei sottoporre all'attenzione degli ascoltatori, che parte da un fatto di cronaca accaduto in una scuola di Torino, in cui la preside poi ha sospeso i ragazzi che si facevano dileggio del professore scambiando il filmino su WhatsApp. Ma è giusto questo? È questa l'unica maniera? Esistono altre maniere? Esiste un punto d'incontro in cui il nativo digitale prende e apprende e ha fiducia del antesignano del mondo analogico e cerca di capire da lui come usare al meglio questi strumenti? 800 24 0024. A tra un istante. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Visto che siamo in tema scolastico, prendo buono il messaggio didattico che mi ha appena mandato la mia farmacista personale Cri Barletta, che è siciliana. Dice: non dite per favore l'acquedotto di Alcantara, sembra che i tubi dell'acquedotto sono fatti di similpelle o di vellutino. Si chiama Alcantara la nostra città siciliana, perché il prefisso al ne denuncia, anzi ne dà con orgoglio la radice araba. Dite Alcantara, l'acquedotto di Alcantara. L'acquedotto di Alcantara è chiaro che fa acqua da tutte le parti, perché è chiaramente un tessuto e non è il cemento in cui dovrebbe passare l'acqua. Riprendiamo il tema del giorno. Quanto possono i ragazzi avere a disposizione uno smartphone senza che questo diventi un oggetto di disturbo della lezione, che non metta in crisi il professore, ma diventi perlomeno la loro appendice emotiva, la loro protesi elettronica per capire meglio, per avere un contatto più diretto con il mondo, anche per comunicare tra di loro, ma ci sarà pure un limite. E su questo lo chiediamo al dirigente scolastico dell'Istituto Maria Montessori, che riunisce le scuole di San Francesco al Campo e San Maurizio, nelle quali si è svolto comunque l'episodio di cronaca di cui parlano tutti i giornali. Professoressa Adriana Veiluva, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Si è conquistata... Mi sono fermata con la macchina, stavo scendendo San Francesco al Campo perché è tempo in questo momento di rassicurare anche i ragazzi che sono turbati da questa, dal clamore suscitato nei media, quindi io mi sto spostando da una scuola all'altra, sono ferma per la strada, forse avrò qualche disturbo. No, no, la sentiamo benissimo. Di contesto, ma spero di riuscire a... Allora, secondo me lei, professoressa, lei ha compiuto un gesto comunque coraggioso, perché ha sollevato l'attenzione su un problema che se no non riusciamo a risolvere. Allora, se la scuola giustamente deve avviarsi verso la conquista del mondo digitale come una caratteristica essenziale del nostro tempo, i ragazzi questi strumenti comunque in qualche maniera devono poterli maneggiare. Però bisogna far capire ai ragazzi in che maniera. Mi dice però, proprio per l'esattezza della cronaca, cosa è veramente accaduto nella sua scuola, così anche su questo diamo un'informazione corretta. Sì, certamente siamo d'accordo che ormai i ragazzi nativi digitali, come vi sentivo dire, come si dice oggigiorno, ecco, i ragazzi ormai utilizzano, dominano questi dispositivi elettronici come anche gli adulti, ma i ragazzi ancora di più. Però siamo a scuola, bisogna rispettare le regole, il contesto, il ruolo dell'insegnante. Allora, tutte le scuole, compresa questa, ha un regolamento interno che vieta l'utilizzo del cellulare, dei dispositivi, senza l'autorizzazione dell'insegnante, quindi senza un setting didattico che lo consenta. Mi sembra giusto, l'insegnante decide. No, mi sembra giusto che l'insegnante decida. In questo momento fa parte della lezione collegarci in rete. Negli altri momenti è un disturbo, perché siamo multitask, ma se seguiamo una lezione, non possiamo messaggiare. Certo, infatti. Quindi gli insegnanti sono venuti a sapere dai ragazzi stessi che alcuni di loro avevano fatto foto, selfie e quant'altro in momenti particolari durante l'intervallo delle lezioni, nel spogliatoio, nel palestra, tutti molto innocenti, assolutamente, quindi non voglio assolutamente che si pensi che i ragazzi di San Francesco il Campo siano così, ecco, non comunque vabbè, era normale attività, normale attività di perditempo che si fa col telefonino, lo facciamo anche noi, anche noi sessantenni. Quindi purtroppo però si è rilevato che alcune foto sono state diffuse, postate e anche alcune riprese, registrazioni audio e video riprese a scuola in situazioni per qualche secondo, un minuto al massimo, e hanno ripreso ben 6 docenti, ecco, uno dopo l'altro, senza che loro fossero si accorgessero, perché se ne fossero accorti ovviamente avrebbero arginato immediatamente, dialogato con loro e ragionato. Quando siamo venuti a sapere questo ci siamo molto preoccupati, gli insegnanti sono molto preoccupati, perché l'anno scorso hanno fatto interventi didattici, educativi con la polizia postale, con gli psicologi su questi temi, per cui è stata una delusione vedere che i ragazzi non hanno fatto tesoro di queste esperienze. Diciamo che lo scopo, non hanno deriso, professoressa, lo scopo era quello classico che anche la mia generazione faceva, la caricatura dell'insegnante, il bigliettino, il disegnino, capisco, è l'evoluzione. Però, aumenta anche la platea, la platea delle persone. Sì, ma al di là della regola, una cosa è un bigliettino, una cosa è metterlo su WhatsApp o metterlo in un social che lo vede tutto il mondo. Poi infatti si è ragionato sul concetto anche di privacy, quindi bene. Detto questo, quindi il consiglio di classe che ho convocato d'urgenza, una volta che siamo stati informati, d'urgenza, la settimana successiva, ecco, appena possibile, tanto si era già affrontato l'argomento con i genitori qualche giorno dopo, nell'occasione dell'assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe, quindi si è sollecitato i genitori a fare attenzione che i propri figli utilizzino adeguatamente questi dispositivi. e in alcuni casi, quando già sapevamo che c'era qualche infrazione, in qualche caso che avesse, un ragazzo che avesse infranto il regolamento, le regole, abbiamo annunciato, preannunciato un provvedimento disciplinare. Lei ha preso un provvedimento contro 22 ragazze, come dicono i giornali? Allora, in pratica sì, abbiamo, in consiglio di classe, quando abbiamo ricostruito attraverso la testimonianza e l'autodenuncia, si può chiamare così eventualmente, dei ragazzi stessi, abbiamo potuto classificare, diciamo così, le infrazioni, le irregolarità, i comportamenti scorretti in due categorie: coloro che hanno utilizzato i dispositivi elettronici senza autorizzazione, ma senza aver violato privacy, allora in questo caso abbiamo pensato necessario una sospensione di alcune ore dell'attività didattica con riflessione con un insegnante che si è preparato per allo scopo, quindi ha prodotto del materiale, ha lavorato con i ragazzi e sono stati anche molto contenti i ragazzi del lavoro che hanno fatto con l'insegnante, hanno preso consapevolezza di tante cose, e invece questi sono 15 ragazzi. Il resto sono quelli che hanno condiviso e si sono presi le responsabilità. Gli altri sono 8, abbiamo, sì, abbiamo ritenuto necessario fare provvedere con una sospensione di un giorno dalle lezioni. Sì, però, signor Presidente, scusi, io tutti a scuola. Non capisco il clamore e diciamo la presa di posizione. Io, cioè, non è che le hanno condannati a essere frustati nella pubblica piazza. Infatti, un giorno di sospensione io me lo prendevo una volta a settimana a scuola. Quello che ci è spiaciuto, diciamo, questo risvolto, ecco, ovviamente, ma vedi cosa è successo. Probabilmente è successo, c'è stato un gap, un problema nella comunicazione ai genitori che erano stati informati dei provvedimenti che stavamo lanciando e avvisati, e alcuni di loro, pochi, non hanno condiviso il nostro atteggiamento severo. Ma se la scuola non ha diritto di sospendere un ragazzo per un giorno, mi scusi, finita l'autorità della scuola, non serve più a niente. Alcuni genitori contestatori hanno fatto richiamo dei diritti e dei doveri degli studenti, giustamente, che prendiamo in considerazione, ci mancherebbe, soprattutto gli studenti lo prevede, e secondo un paio di loro non abbiamo ascoltato abbastanza i ragazzi, quindi rispettando i loro diritti. Sì, ma mi spiega quale trauma nella vita. No, scusi, professore. Quale trauma nella vita di questi ragazzi può comportare irrimediabile un giorno di sospensione che li fa riflettere? Questo vorrei capire. Io capirei se ci fossero pene corporali, radiati dalla scuola, compromesso l'anno scolastico. È il minimo un giorno di sospensione. Certo. Non lo so. Abbiamo fatto poi una riflessione con tutta la classe, con i genitori di tutta la classe sulla loro richiesta, abbiamo ricostruito l'accaduto e restituito anche a loro un'immagine comunque più dignitosa dei loro figli. Ecco, rispetto a quello che si stava dicendo di loro, abbiamo condiviso l'importanza, ecco, di portare avanti, ecco, congiuntamente, in un clima di cooperazione educativa, ovviamente, l'educazione al rispetto delle regole, alla legalità e quant'altro. E tutti hanno riconosciuto, per fortuna, ovviamente, il ruolo e l'autorevolezza degli insegnanti in questo momento. Quindi, alla fine, lei ci ha dato un'ottima occasione per affrontare questo argomento. Lei si può diciamo che cerchiamo di vivere in modo positivo questo episodio come occasione per una crescita di tutti, docenti compresi. Certamente dobbiamo aggiornarci, vi sentivo dire questo, su questa partita, e lo siamo. Poi mi sembra abbastanza attrezzata, professoressa. Io non vorrei però avere la responsabilità del suo arruotamento. Sento delle macchine che pericolosamente le passano vicino. Ferma. Sì. Allora, resti un attimo all'ascolto. Cominciamo a aprire il dibattito. 800 24 00 24, avete sentito, la preside della scuola di cui si parla tanto ha esposto il fatto nelle sue linee generali, però vorrei cominciare a entrare in merito. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno. No, io non ho capito bene una cosa, in realtà, perché nelle cose sui giornali che ho visto c'era scritto che le foto erano circolate unicamente su WhatsApp e non su altri social network, perché effettivamente la cosa cambia un pochettino, no? Che da WhatsApp rimane chiuso nel circolo di quelli, esatto, che lo condividono. Questo è una comunicazione, quindi è una cosa che resta chiusa tra le 20 persone. Allora, a parlare è Andrea Rossetti, professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. Professoressa Adriana Veiluva, solo WhatsApp o anche in altri social? Che poi WhatsApp non è di un altro social. Io sono di una generazione molto precedente a quella dei ragazzi, non so come si chiami, Instagram, un nome così. Ah, Instagram, sì, sono circolati in rete, sono andati in Instagram, quindi l'hanno condivisa. Andrea, cambia moltissimo. Instagram, sì, Instagram è il primo social in termini di diffusione, quindi una foto su Instagram la vedono tutti, esatto, in teoria. La vedono tutti, sì, direi che proprio questo è il discrimine. Insomma, WhatsApp è ormai tutte le classi, insomma, tutti i ragazzi delle classi, anche quelle, anche all'università, insomma, hanno dei gruppi WhatsApp in cui si scambiano cose su di loro e probabilmente anche commenti sui docenti, ma è chiaro che questo rimane circoscritto alle persone che sono iscritte al gruppo, che si conoscono tutte, che probabilmente frequentano il medesimo. Circoscritto, quindi... con il rischio sempre qualcuno poi da WhatsApp la condivida, certo, ovunque. Certo, certo, però anche lì, no, anche, questo vale anche per un fogliettino, no? Se scrivo un messaggio, faccio la caricatura del professore, qualcuno me la fotografa e poi la mette online. Invece su WhatsApp effettivamente, su Instagram la cosa è diversa, perché Instagram effettivamente permette a tutti di vedere queste foto. È chiaro che dobbiamo abituarci anche tutti a prendere queste cose con un po' più di leggerezza, no? Quando noi andavamo alle superiori, e parlo degli anni '80, insomma, c'era una volta all'anno questo giornalino nel quale era permesso prendere ferocemente in giro i professori che ci avevano giudicato tutto l'anno. Ecco, in anno lì c'è Tizzanire, però in un anno. Una volta all'anno. Sì, ecco, la nuova tecnologia in realtà a questa cosa noi professori ci dovremmo abituare un po' di più, insomma, finché si resta nella presa in giro, finché si resta nei limiti del lecito, io credo che dovremmo abituarci ad apparire un po' di più sui social network e criticare i social network. Insomma, se andate sul sito La Bicocca, dove gli studenti parlano di me, non tutti parlano bene, insomma, per usare un eufemismo, però io non penso minimamente a fare azioni di qualche genere legale contro di loro. Questa è una delle conseguenze del social network, siamo tutti più esposti in tutti i modi, il nostro lavoro è più criticabile rispetto al quindi passato. Tu non avresti sospeso? In questo caso francamente io sì, perché no, in questo caso sì, sospeso non lo so, io comunque questo poi insomma, qui è una cosa che dipende anche da scuola a scuola. Sicuramente secondo me era opportuno prendere un provvedimento, perché evidentemente queste persone non avevano capito effettivamente quello che stavano facendo. Però mi sembra che sia stata un'occasione ottima, perché si parte dal giorno di sospensione che non fa certo versare sangue innocente, certo, diciamoci la verità. Certo. Però almeno hanno trasformato in argomento di riflessione quella che era soltanto una circostanza accessoria del quotidiano scolastico. Sì, è questo, perché adesso in tutte le scuole, no, fanno questi corsi appunto in cui si parla di internet, dell'uso di internet, ma gli studenti credono sempre di saperne un po' più di noi, cosa che magari è vera dal punto di vista tecnico, ma non è vero in molto caso dal punto di vista dell'uso, insomma, no? Gli studenti delle superiori sono ancora abbastanza goffi per quello che riguarda le relazioni sociali, e tutto sommato quando parliamo di social network di quello parliamo, ma non stiamo parlando tanto di tecnica o di chissà che cosa, stiamo parlando in realtà appunto di imparare a rapportarsi con gli altri. Quindi secondo me in questo caso una sanzione che facesse capire, seguito ovviamente anche da una spiegazione, però era sensata per far capire quello che hanno fatto in questo caso non era grave, non era in qualche modo giuridicamente rilevante, e però quello che stavano facendo era una cosa che insomma, non andava fatta, ecco. Allora, fermiamoci solo un istante, riprendiamo la riflessione fra un minuto, perché mi interessa a questo punto radicalizzare il caso. Cosa può fare il professore quando si trova di fronte un ragazzo che usa in maniera impropria il proprio smartphone? Qual dovrebbe essere l'atteggiamento della famiglia? In questo caso dovrebbe essere una triangolazione virtuosa con la scuola, non sempre una contrapposizione. Ci metto l'avvocato che è guardato nel sacro telefonino di mio figlio. Soprattutto i ragazzi cominciano a pensare che quel giochetto che hanno in tasca potrebbe creare a loro anche seri problemi, se questa attività di spionaggio e diffusione degli altri esseri umani la fanno in maniera intensiva. Quando saranno un po' più grandini non troveranno di fronte una professoressa che al massimo gli dà un giorno di sospensione, troveranno di fronte un procuratore che lo potrebbe anche far passare guai molto più seri. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Certo, se una cosa accade nel mondo della scuola diventa motivo di riflessione, ma tutti mi scrivono, ma Nicoletti, perché fai queste trasmissioni, cosa faranno di male questi ragazzi? Però se avviene nel mondo del calcio, come è accaduto nemmeno un mese fa, quando il mister dell'Arezzo, Ezio Capuano, se la prendeva con la squadra negli spogliatoi e qualcuno l'ha messa in circolo in rete, è stato uno scandalo nel mondo del calcio, non si fa, il sacro spogliatoio di una squadra di calcio non si tocca. Sì, ma allora anche quello che accade in classe comunque è degno di attenzione. Nicola, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, dottor Nicoletti. Mi scusi, ma sono in viva voce e non riesco a fermarmi. Non so se mi sente bene. Proviamo. Niente, intanto sono d'accordissimo con l'intervento dell'insegnante precedente, il mio collega. Io sono un insegnante, piacerebbe veramente che in classe si utilizzassero i telefonini o gli smartphone, perché ormai secondo me è inutile vietarlo, perché tanto poi lo fanno di nascosto ed è peggio. Bisognerebbe fare ragazzi effettivamente a farne un uso corretto. Certo, gestire una classe e richiamare l'attenzione durante una lezione e contemporaneamente questi fanno social networking non è facilissimo, questo me ne rendo conto, però chiaramente non può più essere considerato soltanto l'oggetto del disturbo, ma in qualche maniera bisogna trovare un'integrazione. Non è facilissima, non è molto facile, però secondo me bisogna lavorarci in questa direzione. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Chiamo da Caserta. Io volevo fare una riflessione, volevo allargare questa riflessione un po' con voi, e cioè in genere i ragazzi sono portati a vedere verso noi adulti un esempio, e spesso l'esempio che noi riceviamo nella scuola non è proprio quello più ortodosso, cioè voglio dire in sostanza che spesso siamo proprio noi che usiamo il telefono in classe, diamo l'esempio ai ragazzi anche con l'uso dei social network. Lei è un insegnante? No, io sono stato un insegnante. Cioè lei dice vedo... molte volte l'insegnante stesso chatta, twitta, WhatsApp, Facebook. Porta anche del personale a livello pubblico, dando una sorta di esempio che spesso è controproducente. Guardi, io sono sincero, finora non mi è capitato di vedere, ma perché è una mia lacuna, filmati o video, foto di scolaresche dal punto di vista dell'insegnante facebookante, però potrebbe accadere, però può accadere quello, non ho dubbi su quello che dice lei, però vediamo di capire quanto questo può essere considerato un comportamento errato, sbagliato, almeno ai termini di legge, anche se molti mi stanno scrivendo, non è un problema legale ma di vero rispetto. Sì, bisogna cominciare a riscrivere quelli che sono le norme comportamentali che fanno sì che la scuola sia un posto distinto rispetto alla casa, alla strada, alla discoteca, alla palestra e via dicendo, in cui ci debbano essere delle regole. Le regole vanno riscritte anche in ragione del fatto che i ragazzi hanno una espansione verso il mondo esterno che ogni istante può permettere di dare un segnale all'esterno di quello che accade dentro. Questo va considerato. Stefano Ricci, buongiorno. Buongiorno. Avvocato, docente universitario, esperto di privacy. Vediamo un po' quali sono le leggi che possono regolare un eventuale rapporto a tre tra scuola, alunno e smartphone. Può l'insegnante dire all'alunno dammi il tuo cellulare perché non lo puoi usare in classe? Basta fare riferimento a quello che è il regolamento scolastico. Nel momento in cui viene vietato l'uso di questi dispositivi, ovviamente il docente, anche senza bisogno di andare a vedere poi il contenuto delle comunicazioni. Ma può andare a vedere il contenuto delle comunicazioni? Secondo me lì diventa il tema diventa più delicato, nel senso che secondo me la sanzione disciplinare del docente, come dire, può scattare anche semplicemente perché nel momento in cui c'è una regola che ovviamente deve essere probabilmente discussa, deve essere articolata, deve essere al passo coi tempi, che prevede un uso limitato o un uso con certi tipi di condizioni di questi dispositivi, è ovvio che nel momento in cui qualcuno viola quella regola non è tanto importante poi l'uso che viene fatto di quei contenuti. In teoria non può andare a dire dammi il cellulare, lo apre e dice vediamo un po' cosa stai chattando, non può quello. Secondo me non ha tanto senso, devo essere sincero. Dopodiché se vogliamo spostare questa cosa da un punto di vista strettamente legale per quelle che sono magari le conseguenze rispetto all'uso di questi dispositivi, io non posso non ricordare che il caso più importante in materia di gestione dell'informatica in Italia è il caso che molti conoscono, Google VVDown, certo, cioè il caso che famosissimo, era nato, ha fatto un caso internazionale. Assolutamente, ma la situazione era esattamente identica, tra l'altro anche da un punto di vista geografico, perché anche lì era un istituto di Torino dove dei ragazzi avevano ripreso un loro compagno affetto da disabilità, lo avevano preso pesantemente in giro e avevano anche allungato le mani, quindi insomma comportamenti. E l'hanno condiviso su. Esattamente. E forse non ricordiamo che al di là del processo che poi ha avuto maggiore attenzione da un punto di vista mediatico, che era quello relativo alla responsabilità della società, esatto, forse dimentichiamo che lì erano sorti altri due procedimenti penali, un procedimento penale nei confronti dei ragazzi, quindi al Tribunale dei minorenni, che si era chiuso con una sospensione con messo alla prova, che è qualcosa di diverso e direi più grave della sanzione disciplinare della sospensione, certo, di un giorno di cui parlavamo prima, ma anche un processo penale a carico dell'insegnante che aveva l'obbligo di impedire quello che poi si era verificato, e poi invece di questo processo francamente non saprei dire qual è stato l'esito. Allora, posso dire, avvocato, la domanda opposta: compie un reato, anche se minorenne, il ragazzo che condivide in un social aperto immagini personali dell'insegnante nello svolgimento delle sue funzioni, come strumento di dileggio, naturalmente, con didascalie che lo prendano in giro, che lo rendano ridicolo, che non è che la foto dell'insegnante basta, insegnante con la presa in giro conseguente. Allora, in questo caso secondo me i piani sono due. Il primo piano, che è quello che, come dire, noi indichiamo sempre come il piano della privacy, bisogna ricordarsi che non è reato la semplice diffusione dei dati senza consenso. Questo magari può rilevare sotto altri profili, ma per essere reato ci deve essere anche un documento concreto e ci deve essere anche una finalità di danno o di profitto, come dice la norma, del ragazzo. Quindi la semplice presa per il culo dell'insegnante non è sufficiente come motivo? Secondo me, anche se venisse presentata una denuncia, il reato tra l'altro è procedibile d'ufficio, quindi non c'è neanche bisogno di una querela, eccetera, nessun pubblico ministero prenderebbe seriamente in considerazione questa cosa, perché o c'è un documento serio come quello che aveva subito il ragazzino disabile di cui parlavamo prima, oppure evidentemente non si arriva fino a quello che è considerato penalmente rilevante sotto il profilo privacy, che sotto il profilo protezione dei dati personali. Mentre invece un altro profilo è quello della diffamazione, la più classica diffamazione, perché noi ovviamente parliamo di privacy praticamente per qualsiasi cosa, però se noi consideriamo che quel video può in qualche modo danneggiare l'insegnante, perché ne danneggia insomma il decoro, eccetera eccetera, lì lo strumento non è tanto quello relativo alla violazione della protezione dei dati personali, ma è semplicemente quello della diffamazione. Le faccio un esempio: YouTube è pieno di video fatti dai ragazzi, molte volte c'è l'insegnante in fase di sbrocco, l'insegnante che sbrocca durante la lezione, se la prende con un ragazzo. Una cosa questo accada nelle quattro mura di un'aula che è contenuto, lo sbrocco pubblicato, generalizzato, messo in condivisione, commentato, in effetti non è bello per l'insegnante vedersi in un momento in cui perde un attimo la pazienza. In questo caso, quale potrebbe essere il profilo? L'unico profilo che vedo concretamente è quello che dicevamo prima della diffamazione, laddove però bisogna considerare il contesto, perché poi anche la giurisprudenza prende in considerazione il contesto per ritenere se effettivamente c'è stata diffamazione oppure no. Un conto è dire certe parole in un determinato contesto, un conto è purtroppo analizzare il contesto dei social network oggi o magari di siti di condivisioni e vedere che quel contesto lì è un contesto particolarmente deteriorato, e allora spesso, come dire, si suggeriscono strade alternative rispetto alla diffamazione, anche perché le procure sono letteralmente intasate Piene, certo. A procedimenti di questo tipo. Allora, ci fermiamo soltanto un istante, poi riprendiamo il contatto con la preside della scuola torinese, con Andrea Rossetti, facciamo un punto. L'avvocato ci ha spiegato esattamente dal punto di vista della fattispecie penale, sono abbastanza irrilevanti in sé, non finirebbe mai davanti a un magistrato, non ci sarebbe mai una condanna e via dicendo. Quindi però mi sembra che l'atteggiamento della scuola sia stato quello migliore, ha dato un segnale di una avvenuta e inoppugnabile atto di indisciplina, ma ha preso l'occasione per cominciare a ragionare che in realtà al di là del diritto, al di là dei fatti penali e delle responsabilità, la vera responsabilità è quella di sapere che la diffusione di quello che accade attorno a noi a una platea immensa potenziale di persone deve comunque corrispondere a una presa di responsabilità individuale. A tra un istante. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando della triangolazione perigliosa o amorosa tra studente, scuola e smartphone. Sara, buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho 35 anni, sono mamma di una bambina che oggi fa la scuola primaria, ma vorrei guardare anche un po' in là, diciamo. Per come oggi credo che il tema della responsabilizzazione individuale purtroppo non sia puramente focalizzato, cioè come se ci fosse un sillogismo fra un comportamento che è diffuso e quindi un comportamento che diventa automaticamente corretto. Il comportamento dell'utilizzo continuo degli smartphone e del collegamento continuo, no? Con necessità proprio di essere in collegamento con il mondo e anche dai genitori e quindi evidentemente mutuato dai ragazzini in classe. Fanno quello che vedono fare in famiglia, onestamente, dai primi anni di vita, quindi non è che è un comportamento solo giovanile, non è come tirarsi le palline di carta che i genitori nostri non se le tiravano. A casa probabilmente non se le tiravano, certo. Questo fa sì che sia un comportamento evidentemente corretto e quindi si perde proprio di vista quella che è la questione di ragionevolezza o meno. Poi dico, è possibile utilizzarli, è innegabile che questi strumenti facciano parte della nostra vita quotidiana in qualsiasi ambito, però mi piacerebbe pensare che la classe crea, non so, una pagina di Facebook piuttosto che una chat, come si dice, no, di WhatsApp sulla propria classe in cui l'insegnante viene magari portato, si condivida quello che l'insegnante fa, ma in bene. Diventa il prolungamento della classe concreta, ma molti lo fanno, questo accade comunque, è un ottimo esempio in cui si studia il mezzo, si studia anche la capacità di relazionarsi con un insegnante anche su un piano probabilmente anche meno formale, ma però se si rispettano alcune regole la cosa potrebbe funzionare. Andrea Rossetti, ricordo professore di filosofia del diritto alla Bicocca, ma non è possibile, o questo va contro qualche legge, mettere un dispositivo di jamming in classe che impedisca ai telefoni collegarsi che venga riacceso al momento in cui diventa didattica? Perché non fanno questo? Questo è il sogno di alcuni miei colleghi, ma in realtà non si può, perché sarebbe interruzione di pubblico servizio, perché un apparecchio di questo genere non potrebbe comunque limitare la sua efficacia unicamente alla stanza in cui viene utilizzato, ma eccederebbe in realtà i limiti della sua applicazione, sarebbe un reato specifico, perché sarebbe un'interruzione di un pubblico servizio. Ma ci sono anche quelli piccolini, sai, che hanno un raggio molto limitato. Comunque, se è troppo limitato non puoi coprire l'aula e comunque tu non hai davvero la capacità di capire fino a che punto arriva il jamming. Però sarebbe la soluzione perfetta. Sì, sarebbe tecnicamente interessante, ma ripeto, la legge però impedisce questa cosa adesso come adesso, perché non posso interrompere questo che comunque è considerato un servizio pubblico. Quindi anche se riuscissi a effettivamente avere un dispositivo perfettamente che genera un campo quadrato, cubico, su perfettamente la forma della stanza in cui sono, in realtà l'uso non sarebbe affatto scontato, insomma. Quindi una buona idea, ma non si può utilizzare. Si possono ovviamente chiuderle, questo sì, le reti wifi, no? Perché tutte le scuole hanno reti wifi che spesso non sono molto ben curate, permettono agli studenti di utilizzarle anche al di là di quello che dovrebbe essere. Ma io penso che ormai un 4G non si neghi a nessun figlio, quindi figuriamoci se hanno il problema del wifi. I fortunati sono quelli che stanno nelle scuole antiche, datate, che hanno le mura molto spesse. Allora riprendiamo con la dottoressa Adriana Veluva, che ricordo la dirigente scolastica del Maria Montessori, comprensorio in cui insiste anche la scuola di San Francesco al Campo. Le è stato per lei di qualche stimolo quello che abbiamo detto finora, professoressa? Sì, assolutamente, molto interessante, ma già siamo orientati in quella direzione dell'utilizzo a scopo didattico, ovviamente di un setting che comprenda i dispositivi elettronici, assolutamente. Abbiamo gli insegnanti esperti di informatica che stanno andando in quella direzione e gestiscono le attività con i ragazzi didattiche in questo senso. La questione che purtroppo abbiamo esaminato come insegnanti, come consiglio di classe, è il mancato rispetto delle regole. Abbiamo il garante della privacy che ha elaborato un vademecum intitolato dalla pagella registro elettronico le regole da ricordare, a cui facciamo riferimento e riprendo le cose che avete già detto, che non ripeto. Quindi bisogna coniugare un po' tante cose, il diritto di utilizzare e l'opportunità di utilizzare dispositivi elettronici a scopo didattico, a scopo informativo, e con le regole rispetto alla diffusione di quanto al divieto, ecco, di diffondere. Ecco, professoressa, a me interesserebbe però una cosa, proprio in conclusione, se ci riesce. Sì? in piena sincerità, qual è il clima che si respira adesso in questa scuola, che è diventata una case history, un fatto nazionale? I ragazzi cosa pensano? Questa loro centralità? Per questa domanda, per questa attenzione, perché infatti io devo assolutamente, voglio recuperare il clima dell'armonia che c'è sempre stato a scuola, ok? Quindi un conto è lavorare noi al nostro interno su quello che è accaduto, riflettendo sull'accaduto, accogliendo la punizione irrogata dagli insegnanti legittimamente, poi possiamo crescere anche sul miglioramento dei regolamenti interni che devono aggiornarsi a queste nuove modalità di comunicazione, per la gran carità, però ci vuole il rispetto, ok? E quindi stavo scendendo, mi sono fermata per a tornare a San Francesco il Campo, dalle mie scuole di origine che sono le Accorio e a Rocca, per andare proprio a cogliere l'umore attuale, lo stato emotivo dei ragazzi e delle ragazze che sono state investite da questo. Io la ringrazio, signor Presidente. Ci tengo, ecco, assolutamente a recuperare questo. E direi che i ragazzi avranno la consapevolezza che in realtà nel grande mondo, nel mondo esterno, nel campo della comunicazione, nei giornali, in televisione, è facilissimo entrarci, però bisogna entrarci per la porta giusta, sennò può essere anche per loro questo molto rischioso. Grazie a tutti, a lunedì.